ma io che l'ho visto so dov'è. Forse non immagini, ma non è difficile comprendere. Vabbè ragazzi, stiamo sbarrellando. Dicevo, oggi è la giornata dei tifosi, perché è stato un weekend bellissimo, è stato un weekend bellissimo, imprevedibile in tutti i suoi risvolti. Dicevo, laziali depressi, romanisti sempre più disorientati, a questo punto impauriti, perché un Lazio così va verso il derby da favoritissima, visto che lo vincono sempre gli sfavoriti. Milanisti un po' più fiduciosi, come dicevo prima con Enrico Ruggeri, in fondo Allegri si è limitato a far giocare quelli vivi, quelli che hanno voglia, quelli che hanno fame, quelli che sono giovani, quelli che hanno ancora l'occhio acceso. È stato un grande weekend, io aspetto tifosi non solo per il calcio, perché ad Abu Dhabi si è vista una gara a mio parere memorabile. 800 24 00 24, numero verde, e siete convocati tutti. Riccardo da Mantova. Buongiorno Carlo, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, io sono un tifoso juventino e ovviamente sì, non posso essere contento, ma al di là di quella che è la meritatissima vittoria dell'Inter, sono rimasto un po' stranito dalle scelte iniziali di Conte, che quelle sono sue assolutamente, e soprattutto dai cambi, sì, che a questo punto spero siano stati decisi da Alessio, spero tra virgolette. Non, chiaramente. Non penso proprio. Ecco, però a sto punto devono spiegarmi, non a me, però perché Bender, che è lento e macchinoso contro una difesa lenta e macchinosa, piuttosto che un giocatore più veloce tipo Matri o Quagliarella. Quagliarella, ma soprattutto ci devono spiegare, non ho capito la ragione per cui nelle gerarchie Bentner ha superato Quagliarella, che era che è un giocatore, soprattutto dopo che si è fatto male Vucinic, insomma è un giocatore che può inventare qualcosa. Possiamo discutere anche del mancato impiego di Pogba, perché in una partita che si era messa in quella maniera è chiaro che ti sei bruciato per evidenti ragioni il cambio di Lichtsteiner, no? Però Pogba, che in questo momento è on fire, come dicono gli americani, beh, io in una partita che diventa così difficile me lo gioco, con coraggio. Scusi, un Lichtsteiner e un Vidal che è circa un mese che sono giù di condizione e si vede a occhio nudo senza fare gli allenamenti, sì, sì, non lo so cosa ci facessero in formazione titolare, ecco, tutto qua. Ma gli allenatori comunque tendono ad andare a queste partite con i loro giocatori, con quelli di cui si fidano almeno all'inizio. Poi sui cambi invece lei ha ragione, discutiamone, ripeto, a parte quello di Lichtsteiner, che non ha fatto altro se non sottolineare e quindi rendere ancora più evidente all'arbitro stesso l'errore che aveva commesso, perché però Conte dichiara sempre di far giocare quelli più in forma. A questo punto mi viene da mettere in dubbio la sua frase, però grande Fernando Alonso, comunque grande Fernando Alonso, ma grande anche Vettel, grande anche Vettel, sono fortunato, stanno volta, una battaglia memorabile, quella per il titolo mondiale di Formula 1. Le ultime due gare saranno uno spettacolo. Riccardo Mantova. Era Riccardo da Mantova, Daniele, provincia di Ravenna. Salve, buongiorno, complimenti buongiorno per la trasmissione. Grazie. Senta, io la chiamo per una cosa che è successa a me sabato, e volevo sapere cosa ne pensava lei. Io ho scommesso a calcio sabato, no? Vincevo una sciocchezza, vincevo 120 euro, una sciocchezza, avevo scommesso 2 euro. Ho scommesso X primo tempo Juventus-Inter. Sì. Io dico una cosa, non sono falsa, al di là di quello che sia successo a me, ma non sono falsate quelle partite là, con quegli errori madornali, con quel gol dato di un fuorigioco di un metro e mezzo. Poi, vista la partita, che hanno fatto un tiro in porta in 45 minuti, che possibilità avevo io di chiudere la legata? Ma grazie, guardi, l'ascolto per radio. Ma no, ma grazie, cioè, tutti gli ascoltatori, tutti gli scommettitori avrebbero di che lamentarsi. Falsata, abbiamo visto una partita in cui ci sono stati due errori arbitrali evidenti, soprattutto il secondo, soprattutto il fallo di Lichtsteiner, che mi sembra ancor più grave, no, come episodio del fuorigioco di pure chiaro di Asamoah. Però ho l'impressione che quei due errori abbiano poi condizionato negativamente la Juventus, cioè siano diventati un boomerang per la Juventus, perché nel secondo tempo abbiamo visto, almeno ho notato, una direzione del vento diversa, pur senza episodi particolarmente eclatanti. L'Inter mi ha fatto una grande impressione, Stramaccione ha preparato la partita meravigliosamente, sta diventando sempre più simile al suo al Vate Mourinho, anche senza star lì a fare paragoni, se non in termini di punti, anche dal punto di vista della, così, del nervo scoperto, dell'essere permaloso oltre misura, perché le dichiarazioni di Marotta non mi sono sembrate particolarmente offensive, così come non mi sembrarono offensive quel giorno quelle di Mondonico. Evidentemente, non so, sta un po' giocando anche lui a fare personaggio, perché è una polemica abbastanza tirata per i capelli, anzi molto tirata per i capelli. È giusto, l'Inter deve giocare in maniera spensierata e deve andare a Torino così, con tre punte, per cercare di far paura alla Juventus, sennò cosa va a fare? A pareggiare contro, a cercare di strappare il pareggio alla squadra nettamente favorita per lo scudetto. L'Inter deve giocare sulla spensieratezza, ha ragione Marotta. Allora, prima di continuare con gli ascoltatori, convocatissimi, 800240024, il numero verde, top 3 delle dichiarazioni del weekend. Partiamo da Montella, che è stata fatta una domanda che non sta né in cielo né in terra, relativa a Della Valle, alla Fiat. Insomma, ma che domande sono? Montella. Ma ora non vorrei essere meloso e tantomeno di parte, ma credo che le aziende del presidente della famiglia Della Valle siano di grande efficacia. Basta vedere i bilanci, basta vedere come in qualche modo corrisponde anche con dei premi ai propri lavoratori. Ho letto tempo fa una nota di questo tipo, quindi vuol dire che sanno fare il proprio lavoro e sanno stimolare anche i dipendenti. Allora, Franco Piantanida, poi giriamo questa dichiarazione a Barisoni per il programma di economia. Lorenzo, Milano. Sì, buongiorno, grazie. A lei. Io volevo dire una cosa. Quando fanno vedere il replay di Milito che calcia il rigore, lui lo calcia di piatto. Quindi quando uno calcia di piatto, a me hanno sempre insegnato che non calcia fortissimo, la calcia per piazzare. Come mai il numero uno del mondo non riesce a parare questo rigore? Questo volevo dire. Ho visto rigori tirati peggio e non parati, Non so lei, a me sembra che Milito abbia tirato un rigore non perfetto, ma non vedo nessuna colpa di Buffon in quel non intervento. Insomma, mi sembra che il rigore calciato di collo più che di piatto sia stato piazzato discretamente. Forse non era un rigore imparabile, però non vorrei, mi sembrerebbe una sciocchezza farne una colpa a Buffon. A Zeman è stato chiesto, secondo gradino del podio, se Totti fa i gradoni. No, a parte che lui gradoni non li fa perché c'è problemi alla schiena. Fai gradini. Problemi da vecchiaia, però. Non si direbbe, però. Però corre tanto e sono contento per me, per lui, per la società. Nicola, Bari, buongiorno. Buongiorno, sono un tifoso dell'Inter, però non voglio parlare di episodi perché non sarei obiettivo, quindi sono d'accordo con quello che ha detto Enrico. Ruggeri. Ma non può essere che magari è un progetto ben studiato dalla società dell'Inter con questo allenatore, che magari conosce meglio le qualità di io credo che abbia lasciato sorpreso anche Moratti. Poi sentiamo cosa ha detto Moratti più tardi nella seconda parte del programma, che cosa ha detto oggi Moratti proprio sulle scelte. Se lo vogliamo paragonare a Mourinho, per esempio, no? Ma non paragoniamo a nessuno. Dobbiamo anche guardare le squadre. La squadra che aveva Mourinho è quella che ha Stramaccioni. Stramaccioni è un allenatore debuttante praticamente, sta facendo molto bene, sta dimostrando grandi idee calcistiche, perché è giusto quello che è corretto, quello che si dice, prepara le partite in maniera maniacale, molto bene, in questo assomiglia molto a Mourinho ed evidentemente avrà imparato qualcosa pur non lavorando direttamente con Mourinho. La partita preparata sabato con la Juventus è stata perfetta da parte dell'Inter che comunque può giovarsi di una condizione fisica che è nettamente migliore rispetto a quella della Juventus, ma sono cose che avevamo già detto alla vigilia. primo piano del nostro podio delle dichiarazioni della domenica. Aventura, allenatore del Torino, è stato chiesto: ti interessa mica Edu Vargas del Napoli? Visto che Vargas non è entrato nel Napoli, hai approfittato per fare una trattativa di mercato già lì al San Paolo e portartelo al Torino, perché so che piace molto al Torino, non so se Gian Piero, almeno che ti piace puoi confermarlo così. No, non te lo dice, non te lo dice. Sì, è carino, ragazzo. Sì. Beh, ragazzi, insomma, Ivan da Brescia. Ciao, ciao a tutti, complimenti per la trasmissione. Grazie. Guarda, casco proprio a fagiolo perché sono tifoso Granata. Ecco, io vorrei fare i complimenti prima di tutto a Ventura, come sta gestendo la società e il gruppo, perché lui è il 90% di tutto, secondo me, quest'anno. Poi volevo fare un commento su Inter-Juve. Sì. Ho goduto due volte, perché essendo tifoso Granata, sì, ho goduto sabato sera e domenica il pareggio del Toro con Napoli. Certo, ci credo. Ecco, ci credo. E poi legittimo. Capitava da anni, ecco. Un'altra cosa, e poi è Marotta, proprio un due in pagella, anche perché? Se si fanno con me, ma no, ma perché è uno stile, no? Si diceva lo stile Juve un po'. Ma a me non sembra, che Marotta abbia detto niente di epocale, niente di trascendentale. Cioè, io non leggo nessuna malizia nelle dichiarazioni di Marotta, sarò tonto io, come direte voi adesso con mille SMS. Però non ho letto una provocazione nelle dichiarazioni di Marotta. Ho letto una certa propensione al come dicevo prima, all'essere permaloso da parte di Stramaccioni. Poteva fargli complimenti allora. Ma no? penso che gliel'abbia anche fatti. Ha detto che l'Inter ha giocato bene. Cos'altro da dire, Marotta? Grazie, Ivan da Brescia. Dicono tutti che non c'è, ma io che l'ho visto so dov'è. Mi aiutava sempre a fare i compiti. Il mio voto è decisamente no. Per me no, è un no. Il mio voto è no. Mancherebbe altro fosse sì. Seguiteci su Twitter, sempre più numerosi, ma non scrivete fesserie. Carlo Genta non riesce proprio a trattenere l'euforia per la vittoria della sua Inter contro la Juve. L'Inter non è mia, sono solo contento per il campionato, perché è stato comunque un weekend estremamente interessante. La mia grande paura è quella di annoiarci alla fine, di annoiarci presto, perché la Juventus la considero la più forte di tutte e non vorrei, la mia grande paura all'inizio della stagione, che potesse chiudere il campionato con grande anticipo, cosa che mi auguro non avverrà. Dunque, sentiamo, visto che abbiamo sentito il podio delle dichiarazioni settimanali, il gol della giornata l'abbiamo scelto noi. A chi va l'Oscar del gol della giornata? And the Oscar goes to Soriano, praticamente in porta. Maresca può rovesciare e trova un gol pazzesco. Maresca, parità 1-1. Dal nulla, un lampo, Maresca 1-1. È normale che a livello di testa ci sia qualche difficoltà, è inevitabile direi, soprattutto poi quando hai una squadra con tanti giovani. Niente, ripeto, la realtà, bisogna vedere la realtà, valutarla, questa è la realtà e credo che ci sia un solo modo per venirne fuori ed è quello innanzitutto di fare punti il prima possibile e poi di stare tutti uniti in questo momento. Tu sei bravo, no, ma che bravo. Sei bravo, no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io, tu hai un dono. Dunque, ho proclamato questo lunedì interessantissimo come il lunedì del tifoso. 800240024 e convocati siete tutti voi, anche Massimo Gilletti, che ha passato una domenica in bianco. Beh, ma ne ho passate 49 in bianco e nero. Ne hai passate 49 in bianco e nero, ci sta, almeno per la legge dei grandi numeri. Massimo, tu sei arrabbiato perché oggi? No, io non sono arrabbiato. Questa squadra mi ha riportato in alto dopo tanto tempo. Sono un po' scettico su certe scelte. Per esempio Bender mi sembra un giocatore che non serve assolutamente a nulla proprio per il gioco che ha la Juventus. E quindi quando vedo magari Quagliarella stare in panchina e fare entrare Bentner, qualche dubbio mi viene.

se te la sei detto sarebbe grave. No, ma no, ha voluto nel senso che uno vede una cosa e non interviene, insomma, questo anche per magari l'equilibrio della partita, non lo so, però comunque è una scelta che in quel momento era azzardata e decisamente molto sfavorevole per noi, insomma. Moratti ha parlato anche del suo allenatore Stramaccioni, che sta sorprendendo tutti. Io credo anche lo stesso Moratti. Non dobbiamo neanche esagerare, perché altrimenti poi falsiamo la cosa, in quanto il tutto è legato anche alla capacità dei giocatori di seguire l'allenatore. No, ma io credo che sia un ragazzo molto sveglio, insomma, quindi questo lo mette in condizione di sapersi adattare e anticipare le cose. E questo speriamo che possa durare, perché per ora abbiamo raggiunto dei risultati che sono straordinari, ma che non sono ancora quelli che la società a questo punto può pensare di raggiungere. E credo soltanto che partita per partita bisogna stare molto attenti, le partite facili abbiamo visto che sono quelle trabocchetto, quindi niente, no, cerchiamo di non montarci la testa. Adesso è stata una bellissima partita. Una bellissima partita, credo, una grande soddisfazione. Oh, voglio fare una scommessa con voi. Scommettiamo che oggi, dunque, una scommessa la facciamo oggi 5 novembre, che al mercato di gennaio De Rossi lascia la Roma. Ci sono altre dichiarazioni di Baldini oggi: se arriverà un'offerta Real o altre per Daniele De Rossi, la Roma valuterà, ha detto Baldini. Abbiamo sempre detto che in estate è stata ascoltata un'offerta del City. I manager hanno il compito di gestire un club e valutare tutte le opportunità. In quel caso l'abbiamo fatto, poi è stato deciso di soprassedere. Dovesse arrivare un'altra offerta, la riascolteremo, ma potremo tranquillamente decidere di soprassedere un'altra volta. Io leggo questo come: chi vuole De Rossi si faccia avanti. Non so voi, De Rossi resta, non gufare, mi scrive qualcuno, ma io mica gufo. Io spero che resti in Italia, spero che resti alla Roma. Mi limito a leggere delle dichiarazioni, ad esprimere delle impressioni che non mi sembrano così campate per aria. Marco Mantova. Buongiorno. Mancano all'appello tifosi fiorentini, mancano in questa giornata che ho eletto come giornata del tifoso, tifosi milanisti, non ho ancora sentito uno, tifosi del Napoli. Dove siete? Marco, lei di chi è? Milanista. Oh, eccola là. Però ammetto che ne capisco poco, quindi chiamo per questo. Sì. Allora, questa mattina intorno alla macchinetta del caffè si parla, come tutti i lunedì, del risultato della domenica, e ero con tre colleghi, un milanista, un interista e uno juventino. Il milanista diceva: ci buttiamo dalla torre. Allegri ha trovato la quadra. Sì. Il juventino diceva: Allegri e il Milan hanno avuto fortuna, e una partita come quella non gli ricapita più. La terza era: il Genova ha fatto la peggior partita della sua storia, peggio di così non può succedere. Il Chievo ha fatto la peggior partita della sua storia, peggio di così non può succedere. Bah. Non capendone niente, non sapevo a chi dare ragione. Chi ha ragione? Ma una piccola ragione ce l'hanno tutti. Il Chievo ha giocato una pessima partita, secondo me, soprattutto Sorrentino, che ho visto in ritardo su tutte quelle conclusioni, peraltro anche fortunose, perché la fortuna in questi momenti serve a squadre come il Milan. Allegri ha trovato la quadra, nel senso che ha fatto giocare quelli vivi, perché in questo momento il Milan ha bisogno di far giocare questi ragazzi che non hanno troppe menate, che non si fanno troppo coinvolgere dal momento e che hanno voglia e fame di campo. I vari, vabbè, non dico El Shaarawy che è esploso e che oggi Gagliani ha blindato fino al 2049, mi pare, non mi ricordo più. Ha bisogno di far giocare Bojan, che è uno che salta l'uomo, che è veloce, che dà profondità e velocità alla squadra, gente come Emanuelson. Montolivo mi sembra stia diventando, se non è già diventato, il leader anche tecnico di questa squadra. Insomma, qualcosa si muove, l'importante è far giocare quelli vivi, perché Pato in questo momento non mi pare lo sia, Boateng non lo è dall'inizio dell'anno. Inutile insistere su questi giocatori che loro l'hanno dato. Mi sembra imprescindibile l'apporto di Abate, mi sembra imprescindibile, perché è, soprattutto quando gioca Pazzini, perché è uno che crossa in corsa come pochi altri, e Pazzini, se lo fai giocare, ha bisogno di cross dal fondo. Dunque non so se è stata trovata la quadratura. Certamente era un Milan vivo, composto per la maggior parte da giocatori vivi. Carlo Pescara, eccolo. Buonasera. Buonasera. Senta, io voglio tornare un attimino sulla partita dell'Inter con la Juve. Si sta dando e saltando la preparazione di Stramaccioni di quella partita. Ma ragazzi, se il primo tempo finisce 3-4-0, non... penso che non era niente di scandaloso. Ma in che film? 3-4-0 in che film? Cioè, perché pare... lì Andanovic... Non... Cioè, voglio dire, no, non mi sembra che la Juventus, che è partita con quel gol a freddissimo, abbia avuto certamente delle occasioni, poteva raddoppiare, ma 3-4-0 mi sembra eccessivo. Perché, perché l'Inter altro gol lo poteva fare, ma l'Inter nel primo tempo è stato inesistente, eh? Ragazzi, non ha fatto niente l'Inter nel primo tempo. Poi, inesistente fino a un certo punto, perché comunque quei tre davanti devi preoccuparti. Stramaccioni se l'è giocata sull'uno contro uno. È vero che la Juventus ci ha provato, è vero che Handanovic ha fatto alcune ottime parate, c'è quel tiro di Bonucci, insomma la Juventus ha giocato un buon primo tempo. Nella ripresa c'è stata solo l'Inter in tutta onestà, ma dire poteva chiudere 3-4-0 mi sembra una follia. Prima di Gianni da Torino, io vorrei far sentire invece altri sport ieri, poi nei prossimi giorni ne parleremo con calma, però qualche voce, qualche flash. Alonso che ha fatto una grande gara ad Abu Dhabi, Starovic che dedica la vittoria a capitano suo e della nazionale Savani, stiamo parlando di pallavolo, che si è infortunato in maniera piuttosto grave, starà fuori 3 mesi. Trinchieri, allenatore di Cantù, che si è trovato con un playmaker solo e ha detto o gioca questo o gioca questo, e comunque ha vinto la partita. Allora, voci dall'altro mondo, dagli altri mondi, dagli altri sport. Sì, 3 punti guadagnati, penso che il weekend era un weekend che non era a posto per noi, con un passo che non era forse il migliore, non eravamo molto competitivi, settimi e nonni in qualifica non era un granché, e quindi guadagnare 3 punti è buono come risultato finale del weekend. Sì, ma mi dispiace tanto per Christian, spero che tornerà più presto, più forte di prima, però noi siamo qua per... giocare più meglio possibile, quindi noi siamo squadra e dobbiamo vincere. Non è un caso che Tabu oggi squadra una partita, diciamo, quasi da tripla doppia, quando sa che o gioca Tabu, o gioca Tabu, o gioca Tabu. Il telefono di Arrigoni sarà già rovendo. Di entrare e uscire. No, penso che lui sta fermo, perché secondo me arrivano come quelli Warburg Folletto che suonano alla porta. Questo era Trinchieri, allenatore di Cantù, sempre piuttosto divertente quando ne ha voglia. Gianni, Torino. Eccomi. Eccolo. Allora, sono Granata. È Granata. Incredibilmente una partita del grande genere, come ieri. 8-0-0-24-0-0-24, tutti Granata del mondo convocati naturalmente. Un colpo di... Beh, lasciamo perdere. No, solo una considerazione. Dunque, il Torino, ma già anche l'anno scorso, gioca molto meglio fuori casa, sì, che in casa, sì, a parte il sistema, perché in casa devi attaccare, devi fare gol, e questa non è una delle prerogative migliori del Torino, con un attaccante vero manca. Non so se possa essere Edu Vargas, che avrà sentito il suo allenatore Ventura, prima ha detto sì, un bel ragazzo, probabilmente non è quello che gli serve. C'è anche un'altra cosa, però. I tifosi Granata, sì, sono molto cambiati negli ultimi anni. Cioè, non sono mai contenti, fischiano i loro giocatori per ogni stupidaggine. I giocatori secondo me giocano molto molto meno tranquilli. Io ricordo l'ultima partita, una delle poche partite che per motivi di forza maggiore riesco a assistere, è stata l'ultima partita l'anno scorso della Serie B. Quindi stavamo venendo in A dopo anni di purgatorio, eccetera. Sì. C'era gente che contestava, fischiava Ventura, fischiava uno, fischiava l'altro. Cioè, ma sa, sono stati anni di grande sofferenza. Ma no, porte chiuse, Gianni, cosa dice? Tifoseria del Torino è una delle più... resta comunque una delle più belle d'Italia, non diciamo fesserie. Porte chiuse no, si vede che dopo che tanti anni di frustrazioni hanno inciso anche da questo punto di vista, ma il Torino sta facendo secondo me un campionato splendido. Avrebbe bisogno sì di un paio di giocatori, però già così mi sembra una squadra con uno splendido impianto, un impianto molto solido. Marco, Pistoia. Sì, ciao, Ciao, buonasera. Forza Ciao. Ferrari sempre. Sì. Anche se la Ferrari ci sta facendo patire, perché Alonso più di così penso che non esista. Cioè, no, più di così non può fare, però ieri Vettel onestamente ha fatto un numero da È quello che dicevo. Perché ieri ha avuto fortuna con le due safety car, tutto quello che vogliamo, però non ha sbagliato niente. Niente. E se partiva in seconda fila come doveva essere, molto probabilmente se la vinceva anche questa. Sì, un grandissimo duello comunque, a prescindere dalla bandiera del tifo, ovviamente un grandissimo duello tra grandissimo campione, perché Alonso secondo me si è dimostrato, si è confermato il più forte pilota del mondo a prescindere da come vada, e la macchina più forte con un grande pilota. Perché il problema, penso che la Ferrari col progetto che hanno fatto della macchina più di così non la possono sviluppare, altrimenti l'avrebbero fatta, insomma, perché... Ma non lo so, secondo me qualche problema di sviluppo c'è stato, perché all'inizio dell'estate la Ferrari era estremamente competitiva, questa competitività, gli altri sono cresciuti, la Ferrari diciamo che è cresciuta un po' di meno. Questo è uno dei macro ragionamenti che si fanno intorno a questo finale di stagione della Rossa. Allora, leggo un'ultima agenzia, poi vi saluto. Walter Mazzara è ricoverato per un intervento vascolare. L'allenatore del Napoli è stato ricoverato questa mattina per sottoporsi ad un'operazione di chirurgia in angioplastica già programmata da tempo per le prossime partite. Probabilmente sarà Frustalupi ad andare in panca. Mentre Allegri, oggi in conferenza stampa pre-Malaga, dice che la partita non sarà decisiva e che l'obiettivo minimo è l'Europa League per il campionato del Milan. Mi sembra un obiettivo realistico. Grazie a tutti. Franco Piantarini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Ciao, ci sentiamo domani. Ma se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.